Ve la ricordate la domanda del quiz? Stanno per arrivare i golfini naturalmente fluorescenti, le caramelle al gusto di vino, una tintura naturale per cambiare colore a gatti e cani. Santo cielo, ve lo immaginate un mondo nel quale ci fossero gatti e cani di tutti i colori? Ho la sensazione che, sebbene non vi sia notizia di tale scenario, una delle nostre invenzioni spudorate, l'idea potrebbe ad un certo punto diventare realtà. Dubito che qualcuno invece troverebbe gradevoli delle caramelle che sanno di lambrusco. Accade invece che, alimentando con una certa dieta il baco da seta, dieta a base di gelsi e una vernicetta fluorescente ma di origine naturale, costui produca il baco, voglio dire, un filo che appunto è di un bel rosa fluorescente. C'è da dire che anche il baco diventa fluorescente. Vabbè, ma insomma, fa già una vita che, insomma, sarà mica questo il suo problema.